Focus Economia. Con Simone Spezia. E lo è solo momentaneamente con Simone Spezia. Buonasera, cara ascoltatrice e cari ascoltatori. Dopo averne tanto parlato e non sempre bene, evidentemente l'Italia si è vendicata con Sebastiano Barisoni, aereo con tre quarti d'ora di ritardo, e tra poco sarà qua per prendere in mano il timone della trasmissione e continuare. Il numero per intervenire in diretta via SMS è sempre il solito 349-238-6666. I temi di oggi, naturalmente si tornerà sul dato, sul prodotto interno lordo, un dato che insomma già lo abbiamo raccontato ieri, è stato molto pesante, inatteso, ci si attendeva un più 0,2%, è stato un meno 0,1%, ed è stato quello che il direttore del Sole 24 Ore e di Radio 24, Roberto Napoletano, definisce nel suo editoriale di prima pagina di oggi un ritorno alla realtà. Ci sarà proprio Roberto Napoletano nella seconda parte della trasmissione a partire dalle 18 per parlare di tutto questo. Naturalmente collegato a questo tema ci sono i mercati che oggi, almeno per quanto riguarda l'Italia, tentano un recupero, anche se la botta di ieri è stata pesante. Il FTSE MIB guadagna l'1,05%, il FTSE All Share lo 0,87%. Nel complesso le altre piazze finanziarie europee sono a due facce: Parigi guadagna lo 0,18, Francoforte in calo dello 0,37, Londra guadagna lo 0,04%, l'America invece è in lievissimo calo, Standard & Poor's 500 meno 0,03, per quanto riguarda il Dow Jones siamo in questo momento addirittura in perfetto pareggio. E tra i titoli che si distinguono, Moncler più 6,84%, Benexor che guadagna il 3,5%, Unipolsa il 3,26%, bene i bancari oggi: Intesa San Paolo più 3,18%, Popolare Emilia Romagna più 3, Ubibanca più 2,77%, Mediobanca più 2,36%, mentre in fondo al listino c'è G-Tech che cede l'1,88%, A2A lo 0,8%, ST Microelectronics mezzo punto percentuale, Telecom Italia altrettanto e Saipem lo 0,43%. Anche questo naturalmente sarà argomento di approfondimento come sempre oggi, tra l'altro con un gestore. E l'altro tema, oltre ad ascoltare ovviamente le voci di oggi soprattutto sulla situazione dell'economia italiana, l'altro tema sarà il voto di domenica in Svizzera sull'introduzione di un salario minimo nazionale. La proposta fissa la soglia minima a 22 franchi l'ora, 18 euro, sono quasi 4.000 franchi al mese per un lavoratore a tempo pieno. I 3.250 euro sono al lordo del 30% di tasse, contributi e cassa malattia. 30%, solo questa parola ci fa soffrire a noi qua in Italia. 30% tasse, contributi e cassa malattia. Veniamo innanzitutto alle notizie in breve e a qualche voce di giornata. Naturalmente più avanti sentiremo anche le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che è intervenuto oggi ospite di Alessandro Milan a 24 Mattino. C'è stato anche Silvio Berlusconi, ospite di Mix 24 di Giovanni Minoli, e ha parlato anche di Expo. Però iniziamo appunto dalle notizie in breve. Iniziamo come sempre dalle materie prime. Il petrolio, il WTI con consegna a giugno in rialzo dello 0,57%, a $102,08 al barile. Per quanto riguarda il Brent, il guadagno è dello 0,22%, a $110,04 al barile. Oro in lieve calo a $1,292,95 l'oncia, meno 0,11%. Qualche altro dato è arrivato oggi: la fiducia dei consumatori americani, che è calata in maggio sotto le attese. Gli analisti scommettevano su un rialzo a 84,5 punti, invece siamo ad 81,8 contro gli 84,1 di aprile. Ci sono le immatricolazioni di auto in Europa, sono state in aprile 1.129.829, il 4,2% in più dello stesso mese del 2013, più 1,9% per l'Italia, giù la Germania del 3,6%, più 8,2% in Gran Bretagna. E molto bene la Spagna, più 28,7%. Bene, abbastanza bene anche Fiat, più 1,5% in aprile rispetto allo stesso mese del 2013. Per quanto riguarda l'Italia, vi abbiamo detto dei mercati, c'è anche un ripiegamento dello spread che ieri, come sapete, ha avuto un balzo anche sulla scorta del dato del PIL, ossia la differenza di rendimento tra i BTP e i Bund tedeschi a 10 anni a 170 punti base, col decennale ancora sopra il 3%, 3,03%. Scendono le esportazioni italiane in marzo, meno 0,8% su base mensile, anche se su base annua le cose vanno meglio, più 1,2%. Il traino arriva dall'Europa. L'Istat parla addirittura di forte espansione delle esportazioni nell'area UE dell'Unione Europea, quindi non nell'area euro. Verso la Spagna più 10,9%, perdiamo punti sul fronte extraeuropeo, si segnala tra l'altro il meno 13,9% verso la Russia. Bilancia commerciale comunque positiva per 3,9 miliardi, l'avanzo l'anno scorso si fermava a 3,1. Le privatizzazioni, il Consiglio dei Ministri ha approvato, non abbiamo ancora il comunicato ufficiale, a quanto si apprende da fonti ministeriali, due decreti legge della Presidenza del Consiglio per la determinazione dei criteri di privatizzazione di Poste e ENAV. Per quanto riguarda Poste Italiane, l'alienazione di una quota della partecipazione non superiore al 40%. Che potrà avvenire anche in più fasi attraverso un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del gruppo Poste Italiane. Anche per l'ENAV l'offerta pubblica è il percorso prioritario da perseguire, si è letto poi nel decreto ministeriale, nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in presenza di un adeguato contesto di mercato, in alternativa all'offerta pubblica di vendita, una trattativa diretta. I dati sul prodotto interno lordo, l'abbiamo detto, torna negativo, meno 0,1% nel primo trimestre del 2014, e questo lo sapete, la crescita acquisita per il 2014 è meno 0,2%, e anche questo lo sapete, così come sapete che si sono persi 14 anni di crescita. Intervenuto a effetto giorno oggi il sottosegretario all'economia Enrico Zanetti. Gli abbiamo chiesto innanzitutto se vedesse la necessità di una manovra, soprattutto se le cose, di una correttiva, soprattutto se le cose continueranno ad andare così, e quindi ci sarà un impatto, parlando del PIL, di rapporto tra deficit e PIL. E poi abbiamo parlato anche di stime di crescita, perché insomma quelle del governo sono ancora piuttosto alte rispetto anche a quelle degli istituti internazionali. Sentiamo. È evidente che se il trend continua a rimanere sotto le stime presenti nel DEF, cioè alla fine i conti vanno rifatti, questo è un dato oggettivo, però noi abbiamo in mano degli elementi che ci inducono a ritenere che il risultato finale sulla base annua, insomma, della crescita sarà rispettato. C'è uno spostamento in avanti rispetto a quelle che erano le stime iniziali, perché nelle prospettive di crescita è maggiore in questa fase la componente più di ordinativi che già di lavorazioni, lo cerco di dire in termini non troppo difficili, e quindi non è che manca l'elemento di ripartenza, manca ancora in maniera piena la sua, come dire, trasposizione numerica nel dato proprio di PIL. Ritiene che si possa conservare questa stima di crescita, che mi pare che sia lo 0,8%, quando già gli istituti di ricerca internazionali e non solo indicano una crescita più bassa? In questo momento noi riteniamo di poterlo confermare, vedremo con il dato del secondo trimestre eventualmente quello che sarà. Noi riteniamo di poterlo fare, siamo anche convinti che questa manovra che noi abbiamo effettuato darà un contributo in termini di ripresa dei consumi. Così Zanetti, sul PIL di questo ha parlato anche Matteo Renzi, più avanti lo ascolteremo. Anche lui ha escluso la necessità di una manovra correttiva. Con Zanetti abbiamo parlato anche di altro. L'abbiamo sollecitato su una dichiarazione piuttosto forte del presidente dei giovani dell'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili. Cosa dice delle piane? I criteri ispettivi dell'Agenzia delle Entrate, governate da logiche di budget unito alla regola dell'inversione dell'onere della prova, talvolta trasforma le ispezioni in azioni estorsive. Allora, l'espressione è molto forte. Abbiamo chiesto appunto ad Enrico Zanetti, che tra l'altro insomma è una vita tributarista prima di entrare in politica, che cosa ne pensasse, se possiamo parlare di estorsione. Ci sono dei grossi problemi sul fronte della lotta all'evasione. Io lo dico da tempo, la lotta all'evasione è fondamentale. I poteri che sono stati introdotti negli ultimi anni, dal 2006 in avanti, da governi di diverso colore, ivi compreso quello tecnico, sono tutti da mantenere, però bisogna un po' cambiare l'impianto della filiera dei controlli. Oggi noi abbiamo un sistema di organizzazione nei rapporti tra MEF, Agenzia delle Entrate ed Equitalia, che finisce per far snaturare la lotta all'evasione sacrosanta, che è lotta all'illegalità fiscale, un po' in una sorta di caccia al gettito, dove alla fine si privilegia la ricerca del rabbocco a chi è già emerso e ha dei patrimoni facilmente aggredibili, più che la caccia a chi apre e chiude 100 volte partita IVA, l'evasore totale, a chi presta nome, perché è più difficile per la fine far incassare. Però se invece di fare caccia al gettito si facesse davvero lotta all'evasione, è chiaro che invece le priorità dovrebbero andare ai comportamenti più socialmente pericolosi. Dobbiamo cambiare la struttura, proprio l'architettura degli enti della fiscalità. Questa è una battaglia che Scelta Civica e io per primo porteremo avanti fino alla fine, non per ridurre l'efficacia della lotta all'evasione, ma per eliminare quella parte di ferocia che la tramuta in cinica caccia al gettito. Questo è un problema che c'è e ce lo dobbiamo dire con grande, grande, grande franchezza. Oh, ora che Alitalia ha consumato la sua vendetta, Sebastiano, sei arrivato finalmente in studio. Però non andavi male, eh? Si vede che conduci un programma. Ti ringrazio. Dalle 13 alle 14, no? Grazie Simone Spezia. E facciamo questo passaggio di testimone, vedo che ridono tutti in regia, ridete. In realtà è interessante quanto diceva Zanetti. Noi adesso ci occupiamo anche di altre notizie in breve, per poi arrivare agli interventi, come già ricordava Simone Spezia, di Matteo Renzi questa mattina da Alessandro Milan, e poi di Silvio Berlusconi da Mix24. Abbiamo però altre notizie che riguardano da un lato la buona uscita di Pansa e dall'altro però anche alcune notiziole che speravo leggessi tu una volta tanto, Simone, ma sugli sprechi della pubblica amministrazione italiana. So che gradisci particolarmente, te la riservo a te. Va bene, grazie Simone Spezia. Invece noi continuiamo con le notizie in breve. perché Finmeccanica, che ieri non ha votato le clausole di onorabilità per quello che riguarda i membri del CDA, ha accordato all'amministratore delegato uscente Alessandro Pansa un'indennità compensativa e risarcitoria pari a 5.450.000 euro, un'indennità che si aggiunge alle competenze di fine rapporto e ai diritti maturati da Pansa in relazione al piano di incentivazione. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms e ancora la pagina di Facebook per quello che riguarda Focus Economia. Prima di passare ai temi che chiaramente sono, come già ricordava Simone Spezia, un tra virgolette corollario di quanto è accaduto ieri, oggi moltissime notizie sono proprio sull'andamento e reazioni sono sull'andamento della nostra economia, il rallentamento a sorpresa, ma come ricordava Simone Spezia ci occuperemo anche di un referendum molto importante, quello per il salario minimo in Svizzera. Addirittura c'è chi teme, come chi rappresenta gli industriali elvetici nella parte del Canton Ticino, che vi sia una fuga di imprese dalla Svizzera all'Italia. Sarebbe forse la prima volta che vedremo imprenditori andare dalla Svizzera all'Italia. Però, dicevo, abbiamo anche qualche notizia che non riguarda ancora il generale dei carabinieri della regione Campania, ma riguarda sì, ancora la regione Piemonte e poi per alcuni versi anche la Campania. Allora, va bene, vedo molti commenti anche alla vendetta che l'Italia ha consumato su di me, vabbè, ci sta tutta, dunque, per quello che riguarda, invece c'è poco da ridere, per quello che riguarda le spese della Regione Piemonte, escono ancora altri dettagli, perché ci si chiede, per esempio, quale fosse il motivo politico, la natura politica di una spesa alla Reggia di Venaria per un conto da 300 euro il giorno di San Valentino. È il PM Giancarlo Venati Bassi che lo ha domandato con insistenza al consigliere regionale del Piemonte Michele Formagnana, visto che questa era tra ricevute da farsi rimborsare. Sono molto romantici i consiglieri che fanno attività politica nella regione Piemonte, perché ce n'è un altro, Paolo Tiramani, che ha chiesto di farsi rimborsare un insieme di scontrini messi a Venezia, anche se lui prima aveva negato di essere stato in una città lagunare, cosa che in effetti era vera, perché le sue telefonate in realtà dimostravano come questi scontrini poi portati a rimborso fossero della moglie, non del consigliere. Vabbè, noi glissiamo oggi perché venerdì sul consigliere Andrea Stara della lista Insieme per Bresso, mentre Tiramani era della Lega Nord, che aveva inserito tra i rimborsi spese per l'attività elettorale anche l'acquisto di un Tosa Erba e oltre che un tubo per l'irrigazione. Ora io capisco tutto, a tosare gli italiani ci pensano già le tasse, però attenzione che da questo punto di vista mettere un Tosa Erba come attività politica è un po' difficile. Ripeto, niente a che vedere con la cena venaria, però insomma, per quello che riguarda invece Salerno, il comune ha deciso, c'è una nuova figura, in questi anni abbiamo raccontato di tutto, di avvistatori di neve in Friuli, maestri di sci da fondo, concorsi per maestri di sci da fondo nell'Etna, i camminatori alla regione e anche al comune di Palermo. Ci mancava il correttore di bozze, nel senso che il correttore di bozze è una cosa che a me rimanda proprio all'inizio della mia professione, si usava nei giornali quando non c'erano ancora i sistemi informatici. Invece esiste ancora il correttore di bozze, tant'è che l'amministrazione comunale di Salerno ha deciso di corrispondere 18.000 euro al lordo delle ritenute fiscali e contributive al signor Francesco Paolo Godono, immagino un bravissimo correttore di bozze. Deve fare che cosa? Deve, nell'ambito della stagione musicale del comune di Salerno, deve andare a provvedere al coordinamento grafico editoriale tra il Teatro Verdi e la tipografia detta La Stampa, curando in particolare la corretta esecuzione della grafica, impaginazione testi, inserimento materiale fotografico, elaborazione ricerca e fotografica. Cioè deve correggere le bozze. Ora voi direte, ma ve lo facciamo gratis a metà del prezzo da qua? No, la cosa serve perché l'anno scorso, nel corso della diciamo manifestazione artistica e appunto lirica del comune di Salerno, erano riusciti a scrivere nella brochure che la Bohème era un'opera di Verdi e non di Puccini, quindi forse il correttore di bozze serve, non so se servisse pagarlo così tanto. Allora, pensate a cosa ci vuole per rilanciare, lo diciamo spesso, il turismo in Italia, il vero oro nero del sud. Sì, tanto nero che nessuno riesce a farlo emergere. Perché? Perché la campagna istituzionale dell'Enit, ho visto che l'Enit ha cambiato nome adesso, spero che cambi anche il modo di operare, perché è proprio l'esempio del baraccone più baraccone, ma non solo perché non serve, servirebbe tantissimo un vero ente di promozione del turismo in Italia, fatto sul modello francese per esempio, ma anche sulla base di quello spagnolo. Invece c'è, ma non serve per come lavora, non perché non serve in sé. Comunque l'Enit, storico baraccone dell'Agenzia Nazionale del Turismo, per rilanciare l'immagine dell'Italia all'estero aveva previsto un investimento di 5 milioni di euro. Ora, uno detta così è importante, è giusto, è cosa buona e giusta. Sapete come si è conclusa questa vicenda? Praticamente ci hanno messo un anno e mezzo per fare 7 foto, viste praticamente da nessuno. La diffusione in 8 paesi non c'è stata. L'Enit non ha potuto comprare spazi pubblicitari all'estero per mancanza di fondi e ha utilizzato di nuovo tutte le sue risorse per pagare lo stipendio ai dipendenti. Sì, però vuol dire pagare lo stipendio ai dipendenti, se non puoi fare promozione di un ente che fa promozione, è come pagare lo stipendio a un dipendente che lavora in un supermercato se poi non puoi aprire la sala cinesca. È una cosa fuori di testa. L'Enit annunciò nel 2012 l'iniziativa rilanciare in grande stile il turismo italiano. 8 paesi, dalla Germania al Regno Unito alla Russia, sarebbero stati inondati di cartelloni pubblicitari e lo spot sarebbe andato in onda anche sulle radio TV. Bene, finalmente, dicemmo noi a suo tempo. Poi però mancano le risorse, c'è anche qualche fuori programma. Per scattare le foto ci vogliono diversi mesi e metà del lavoro un consigliere del sottosegretario allo sviluppo economico ha chiesto il ritiro delle immagini perché compariva davanti ad un trullo insieme alla moglie, dalla quale nel frattempo si era separato, dalla moglie, non dal trullo. No, ma io ti giuro, cioè, un paese così, ma bisogna crearlo a tavolino. Cioè, ci vuole un anno e mezzo per scattare 7 foto dell'Italia che devono far parte di questa grande campagna per rilanciare quello che dovrebbe essere uno dei settori importanti dell'Italia, il turismo. Faccio notare che ci battono tutti ormai nel turismo, alla faccia delle politiche di rilancio. Poi a metà del lavoro un consigliere del sottosegretario allo sviluppo economico chiede il ritiro delle immagini perché in una di queste compariva davanti a un trullo insieme alla moglie dalla quale nel frattempo si era separato. Poi è il massimo, giustamente, questo ha detto, ma come, inondate l'Europa di immagini mie, di mia moglie, di ex moglie con cui sono in causa davanti a un trullo. Anche la Puglia poi magari faceva causa. Comunque voi direte, vabbè, l'Enit non ha soldi. Sì, insomma, riceve 20 milioni di euro all'anno di fondi pubblici, ne spende 18 in stipendi, riesce a fatica a trovare 1 milione di euro per fare qualche cartellone pubblicitario spalmato tra Londra, Parigi e Mosca. Vuol dire, facciamo prima o a chiuderla. Mi dispiace per i dipendenti, ma non ha senso mantenere un ente che serve solo a pagare con 18 milioni di euro all'anno i dipendenti. Allora, la RAI è nella bufera per i tagli che Renzi ha messo nella manovra sugli 80 euro famosi sulla riduzione dell'IRPEF. La RAI deve contribuire per altri 150 milioni oltre i 50. Però faccio notare che nel corso degli anni la RAI ha anche disseminato redazioni in giro per Roma senza calibrarne la metratura. Praticamente da Ballarò a Porta a Porta, da Gran Geo a Rai Vaticano, da Rai 5 a Rai 4, il canone non è di abbonamento, è di locazione, per un conto finale di 11 milioni 200 mila euro, quanto spende la Rai di affitto in un anno. Mi sembra un po' tantino, possiamo dirlo. Anche perché ci sono uffici in 16 strade diverse. Via Goiran, via L'Angelino, via Montezebio, via Montesanto, via Achille Papa. E poi c'è lo studio al Foro Italico, dove girano Brando con le Stelle, la struttura di Borgo Sant'Angelo, che ospita i canali digitali, e le trasmissioni col marchio Vaticano, che valgono 2 milioni per due. Perfetto. Poi migliaia di euro vengono praticamente buttati per ritardo tecnologico. In via Salaria custodiscono ancora per 400.000 euro l'anno le cassette e i nastroni di 60 anni di servizio pubblico, che è una cosa giusta, però insomma magari si può mettere da qualche altra parte, magari ci sarà un museo, qualcuno che lo prende per meno di 400.000 euro. E comunque 11.200.000 euro d'affitto l'anno, oltre alla sede, le sedi ufficiali della RAI, Viale Mazzini e Saxa Rubra, non si possono sentire. Allora, visto che il ritardo dell'Italia mi ha incattivito, mandiamo il metro, la pubblicità, poi ascoltiamo alcuni passaggi dell'intervento di Renzi e di Berlusconi, il referendum svizzero e poi in realtà anche un'analisi di quanto scrive oggi il direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, la dura realtà dei numeri. Per far crescere il PIL non bastano le promesse o le iniziative politiche. Meteo. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, vedo alcuni che dicono basta, adesso lei è arrivato e continua con i consiglieri regionali, con la pubblica amministrazione, dovrebbe volare più alto dopo quello che è successo ieri al PIL italiano. Allora, guardi, ne è così sicuro, certo che adesso ne parleremo a lungo, ma è così sicuro che nella non crescita di questo paese, che non dura da 4 anni, dura dal 2000, che noi cresciamo sempre meno degli altri, e purtroppo anche ieri lo abbiamo visto, nulla c'entrino per esempio gli sprechi della pubblica amministrazione, che in questo caso non sono solo sprechi, sono inefficienze che non permettono al paese di crescere. Quando tu hai l'ente del turismo che consuma su 20 milioni di euro 18 per gli stipendi, non fa mai pubblicità e campagne per il paese, mentre Spagna, Francia, perfino la Germania lo fanno, perfino la Grecia si è messa a fare di nuovo, forse un danno economico sul paese c'è, forse abbiamo meno turisti. Quando noi raccontiamo degli sprechi della pubblica amministrazione, forse l'inefficienza della pubblica amministrazione va a incidere sul PIL complessivo, quantomeno perché poi ti tocca pagarla sotto forma di tasse. E allora una pubblica amministrazione più efficiente, che aumenti e che contribuisca all'aumento del PIL, una lotta seria all'evasione, sono temi di cui parliamo da 15 anni, non mi sembra che non c'entrino per nulla col PIL. La borsa, dicevamo, più 1,12% Milano oggi in recupero, non totale, solo parziale dopo la scoppola di ieri. Francoforte meno 0,30, Parigi più 0,26, Londra più 0,13, l'America è invariata, euro a quota 1,37, quindi il mercato lo tiene rispetto ai livelli delle ultime settimane relativamente basso. Tra i titoli perde soprattutto G-Tech meno 2,50, A2A meno 0,80 come stima Microelectronics, mezzo punto lo perde Monte dei Paschi e Autogrill. Bene invece, molto bene, Moncler più 6,20%, Exor più 3,80, Popolare Emilia Romagna più 3,5%, Unipolsai più 3,30, Intesa più 3, Azimut più 2,60, Luxottica più 2,5, Ubibanca più 2,40 come Mediaset, Pop Milano più 2%, CNH Industrial più 2, Campari più 2, Mediobanca anch'essa più 2% come Unicredit. Oggi il commento di borsa, come ogni tanto facciamo, lo facciamo con operatore del settore, dottor Roberto Brasca, vicepresidente di Acme SGR, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a lei. Senta una cosa, ma Moncler, no, perché se mi viene in mente quello che diceva ieri il professor Mario De Aglio sul calo del PIL, un inverno molto caldo, ancora c'è gente che contesta, no, ma dico, ma Moncler oggi più 6,20? C'è un motivo particolare? Moncler oggi ha riportato dei risultati migliori delle attese, ha fatto anche una presentazione a noi investitori, io non ero presente in prima persona, ma insomma sembra che abbia dato delle buone prospettive, quindi unite a un buon report di risultati e anche a un mercato un pochino più favorevole rispetto a quello di ieri, questo è stato il risultato. Bisogna sempre mettere in conto il fatto di quello che aveva fatto il titolo nei giorni precedenti, non si era comportato particolarmente bene, quindi insomma c'è una correzione. È vero, è vero. Così come tutto il settore che chiamiamo lusso in generale, Luxottica più 2,50, lo ricordavo oggi. Mi tolgo una curiosità, ma Exor, quindi la controllante del gruppo Fiat, che recupera il 3,80%, cos'è un Anche qui, insomma, diciamo che molti dei prezzi di oggi sono una reazione all'eccesso, o perlomeno insomma allo scivolone di ieri, che veniva dopo, però. No, ma lo dica pure, secondo lei era un eccesso? Ma sì, probabilmente sì. Beh, insomma, i risultati di Fiat non sono piaciuti particolarmente. No, questo ce ne siamo accorti anche noi. Soprattutto non è piaciuto il fatto che gli analisti non amano non capire come venga finanziato un piano di investimenti abbastanza consistente collegato all'entrata su segmenti dai quali il gruppo Fiat è stato fuori per anni. Peraltro io non concordo assolutamente con questa interpretazione, perché credo che Fiat abbia fatto la cosa giusta. Finalmente, io lo auspicavo, lo dissi anche agli organi societari in tempi non sospetti 10 anni fa, che dovevano puntare su quei segmenti con quelle marche, e finalmente lo stanno facendo. Io penso che se loro, adesso non si può aggiustare il tiro con la decisione su un programma che ha un orizzonte di 5 anni, per esempio siamo stati dati al 2018, però insomma se loro faranno bene poco alla volta, come hanno deciso di fare, cominceranno dal marchio Jeep per primo e avranno il cash flow poco alla volta, poi man mano, ormai anche le banche centrali navigano a vista, e man mano che cosa fare, se avranno bisogno di dare un'accelerata sugli investimenti, le cose staranno andando bene, vedremo tutti che il mercato sarà ben contento di fare un aumento di capitale, non ce l'avranno bisogno, meglio per tutti. Allora, resti con noi, dottor Brasca, perché adesso le informazioni sul traffico, vorrei capire anche come archiviamo oggi questo parziale recupero delle banche, il rimbalzo. No, non del gatto morto come scrive qualcuno, rimbalzo vero, però vorrei, non vorrei tralasciare quanto lei accennava all'inizio, cioè forse ieri si è esagerato. Allora io dico, per carità, non faccio l'operatore di borsa e ben me ne guardo, però obiettivamente un calo così pesante per un dato sul PIL che invece che farlo più 0,1 fa meno 0,1, più 0,2 fa meno 0,1. Adesso non è che tutte le volte che facciamo più 0,4 invece che 0,2 la borsa festeggi. Secondo me si è sommato anche un po' un effetto gregge, per dirla con eleganza. Mentre c'è chi mi scrive, ma lei pensa onestamente che i suoi racconti sugli sprechi servano a qualcosa? La verità è che non ha altri argomenti. Ma guardi, invece vorrei parlare di altri argomenti. Purtroppo sono questi gli argomenti che ci fornisce la pubblica amministrazione. Comunque insomma, la radio è bella perché è libera. Traffico. minuti, sicuro che serva la pubblicità per la crescita del turismo? Beh sì, a meno che tutti gli altri paesi al mondo non siano impazziti, fare promozione sui mercati serve per far crescere il turismo. Torniamo invece con il dottor Brasca. Dicevo, le banche, allora, rispetto ai tonfi di ieri, oggi recupero parziale, quindi Intesa più 3, UbiBanca più 2,40, Pop Milano più 2. Ma questo vuol dire, no, volevo fare una domanda però, cioè se un titolo perde il 6 o il 5% un giorno e il giorno dopo recupera il 2 o il 3, visto che non è successo niente nel frattempo, possiamo dire che almeno metà del tonfo di ieri era eccessivo? Dipende in che prospettiva mettiamo il discorso, nel senso che nell'ambito di due giornate di borsa praticamente può succedere di tutto, no? Nel senso che ieri c'è stato qualcuno che ha venduto il rischio Italia nel complesso, si è allargato tantissimo lo spread sulle obbligazioni e il correlato sul mercato azionario è di vendere l'azionario in generale che rappresenta rischio, ma soprattutto le banche che sono portatrici di spread, ovviamente. Oggi c'è stata una correzione, vuoi perché non ha sfondato in apertura al mercato americano, vuoi perché non c'è stato niente di nessuna conferma negativa particolare, vuoi perché è venerdì e magari qualche posizione aperta con al ribasso aperta ieri è stata chiusa con profitto. Però direi che guardando in più in prospettiva, sì, le banche e in generale tutti i titoli cosiddetti value, cioè quelli che hanno una valutazione bassa, avevano performato molto bene dall'inizio dell'anno, e lei giustamente ha detto poco fa che invece i titoli del lusso, che erano quelli che erano stati in voga per gli ultimi 3 anni fino alla fine del 2013, avevano sottoperformato dall'inizio dell'anno. Ecco, questo diciamo trade titoli value contro titoli crescita, questo scambio, cioè quelli del lusso, insomma. Oggi forse qualcuno, forse anche qualche straniero che ci considera insomma un mercato un po' più meno visto in modo granulare rispetto a come lo vendiamo noi, dice ma sì, questi titoli hanno fatto tanto, aspetta che prendo profitto, questi altri titoli hanno tutto performato fino adesso, chiudo un attimo, metto a pari la mia posizione. Quindi, sell in May e go away, come dicono gli inglesi. Esatto, bravissimo. In più c'è anche da considerare che il 25 maggio ci sono le elezioni europee. Quindi qualcuno ha trovato particolarmente allettante magari chiudere un po' di posizioni che possono risentire di tensioni sull'euro se vince magari qualche partito strano, e spostarsi su titoli come per esempio quelli del lusso, che sono più collegati alla crescita globale che non Mi dica un'ultima cosa, però torno alla domanda iniziale. La reazione di ieri, che noi non abbiamo visto nemmeno quando diciamo non si riusciva a formare un anno fa il governo in Italia, un po' più di un anno fa, cioè reazioni così forti all'improvviso, noi era un po' che non le vedevamo, le abbiamo viste. Sì. Sì. Allora, va bene tutto, va bene che abbiamo fatto meno 0,1, anzi va male, rispetto a un più 0,2, siamo tutti preoccupati per un'Italia che è partita col freno a mano tirato invece che continuando un po' di ripresa. A me è sembrata anche molto un pretesto, ripeto, nemmeno di fronte all'ingovernabilità abbiamo mai visto un calo del 3%, però vorrei sentire la sua opinione. Ma sì, sul singolo giorno può sembrare un eccesso, io sono un pochino più possibilista, nel senso che dal punto di vista, normalmente è giusto quello che lei, condivido quello che lei dice, dal punto di vista generale, siccome questi titoli hanno fatto tanto, molte banche sono sotto aumento di capitale, come dicevamo ci sono le elezioni, cioè c'è una serie di rischi che si addensa, da cui forse alcuni operatori vogliono stare per il momento alla larga. Questo non significa che è ovvio che una società, io dico sempre, le imprese non è che cambiano di valore del 6% al giorno, perché è chiaro, è una correzione, un movimento finanziario. Io credo che il trend dell'Italia sia per un recupero, perché comunque siamo in un sistema allargato, l'Europa, l'Italia ha i suoi problemi. Certo, i recuperi non si fanno mai in linea retta, e quindi può darsi che ogni tanto la strada abbia delle curve o delle buche, e questo potrebbe essere un periodo da qui a fine maggio un pochino più volatile. Vabbè, quindi ecco. Si tra elezioni, le dice prese di profitto, e appunto il detto inglese che citavo, che di certo gli operatori anche loro tengono famiglia, anche loro vanno in vacanza, a maggio vendono e poi si ricompra a settembre. Non sempre è successo così, ma c'è una certa tradizione in tal senso. Faccio notare che di negativo oggi, oltre a G-Tech, c'era anche A2A meno 0,80 e poi Estima Microelectronics meno 0,70, Monte dei Paschi meno 0,50 come Autogrill. Invece in assoluto il miglior titolo Isagro più 11,50, Tiscali anch'essa più 11,50, di Moncler abbiamo detto e basta. Che succede? Che succede? La base, perché siamo in chiusura. Mondo TV meno 13,33, Mondo TV France meno 9%, Worldspace meno 8,60, Meridie meno 6,30%. Grazie a Roberto Brasca e buon fine settimana, vicepresidente di A come ASG. Grazie a voi, buonasera. Ormai anche la regia è in anarchia. Va bene, allora GR24, poi il referendum in Svizzera per il salario minimo, timore degli imprenditori svizzeri che le aziende si trasferiscano in Italia, il mondo sta cambiando, e poi il commento del direttore del Sole 24 Ore alle dichiarazioni di Renzi, di Berlusconi questa mattina alla Radio 24, ma anche a quello che è successo ieri sera con i dati sul PIL. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. 18:08, di nuovo con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Mai avrei immaginato di leggere dichiarazioni di rischio che le imprese del Canton Ticino e alcune imprese svizzere potessero trasferirsi in Italia. In realtà la provocazione è arrivata dal direttore dell'Associazione delle Industrie Ticinesi, Stefano Modenini, che ringrazio per essere in collegamento con noi. Buonasera, direttore. Buonasera. E ringrazio anche Lino Terlizzi del Sole 24 Ore in collegamento con noi da Lugano. Buonasera. Ciao Lino. Buonasera. Allora, domenica gli svizzeri voteranno il referendum sull'introduzione di un salario minimo nazionale. La proposta fissa la soglia minima a 22 franchi l'ora, 18 euro, pari a quasi 4.000 franchi al mese come salario minimo, sono 3.250 euro per un lavoratore a tempo pieno. I 3.250 euro come salario minimo sono chiaramente al lordo del 30% di tasse, contributi e cassa malattia. Se passasse il referendum, la Svizzera avrebbe il salario minimo più alto al mondo, 18 euro contro gli 8 della Francia, gli 8 e mezzo della Germania. La misura interesserebbe circa 330.000 posti di lavoro. Allora, Lino Terlizzi, le possibilità che vincano il sì al salario minimo? I sondaggi indicano che la maggioranza degli elettori voterà no, però nella realtà svizzera bisogna sempre stare attenti, perché abbiamo già visto altre volte sondaggi che poi sono stati contraddetti dai fatti, ed è accaduto anche abbastanza recentemente. Quindi questa è la previsione prevalente, però credo che il tema sia molto delicato e quindi bisognerà seguirlo sino all'ultimo, l'esito è incerto. Dottor Modenini, ma vista così sembrerebbe che, se dovesse passare, appunto, Lino Terlizzi ricordavo come per ora i sondaggi virino tutti al no, ma io mi aspetterei una fuga di lavoratori dall'Italia verso la Svizzera. Lei teme che invece questo porti un danno alle imprese svizzere? Ma diciamo che io mi sbilancio abbastanza, perché disponiamo comunque dei dati abbastanza degli scorsi giorni. L'iniziativa verrà bocciata chiaramente da oltre il 60% della popolazione, però a parte questo la questione è che questa è un'ingerenza, sarebbe un'ingerenza dello Stato nella contrattazione tra le parti sociali, perché i salari in genere vengono fissati dalle parti sociali. E poi ci sarebbero degli effetti differenziati a seconda delle regioni, e in una regione di frontiera come la nostra questa iniziativa avrebbe un potere di attrazione verso la manodopera frontaliera italiana innegabile, quindi creerebbe ancora più tensione sul mercato del lavoro. Chiaramente noi siamo dalla parte, siamo quelli che impiegano anche i lavoratori italiani, quindi almeno in una certa misura, quindi noi non siamo contrari a questa manodopera, ma la popolazione evidentemente teme un arrivo in massa di manodopera dall'Italia. Se passasse il referendum. Sì. Ma che cos'è che ha spinto prima Terlizzi e poi chiaramente anche lei, Modenini, cos'è che ha spinto a lanciare questo referendum? Sappiamo che è proposta politica anche in Italia di un partito, però insomma la Svizzera non è che abbia il problema di disoccupazione che ha l'Italia. Ma credo che gli elementi siano due. I proponenti appartengono al mondo sindacale e sono appoggiati dai partiti di sinistra svizzere, dalle formazioni di sinistra svizzere sostanzialmente. La prima ragione è che sostanzialmente si vuole dare un po' uno scossone a quello che in effetti è un sistema collaudato svizzero, quello di affidare sostanzialmente alla contrattazione delle parti sociali, senza avere un intervento dello Stato su alcuni parametri fondamentali, tra cui quello del salario minimo. Quindi viene messo in effetti un po' in discussione anche questo modello, che sin qui, devo dire, a mio parere, nella gran parte dei casi ha funzionato, perché la Svizzera è un paese caro, ma è anche un paese, al di là delle differenze regionali, è un paese in cui i salari hanno un livello abbastanza, mediamente nella comparazione europea e internazionale, abbastanza elevato. L'altro elemento più specifico è quello appunto di garantire a una parte della forza lavoro, che però è del 9% secondo i calcoli del governo svizzero, un salario minimo di quel tipo lì. Però credo che sostanzialmente la risposta di chi dice ma guardate che si può garantire un certo tipo di salario, magari non esattamente quello che è molto alto, però un certo tipo di salario dignitoso nella realtà svizzera, ecco, si può garantire anche attraverso la contrattazione tra le parti sociali. Modenini? Sì, è così. Del resto gli stessi sindacati hanno firmato l'anno scorso il rinnovo del più grande contratto dell'industria svizzera, che è quello della metalmeccanica e dell'elettronica, sono quasi 100.000 lavoratori, e hanno fissato per la prima volta in questo contratto storico un salario minimo, tuttavia differenziato per regione economica e per attività di impresa. Quindi è quella la strada da intraprendere, non quella di fissare dei salari uguali per tutto il paese. Staremo a vedere. Poi è vero, come ricordava Nino Terlizzi, che per esempio a febbraio, a sorpresa, a metà febbraio ha vinto il sì all'introduzione in Svizzera di quote contro l'immigrazione di massa per una percentuale leggerissima, il 50,5%. Mi sembra che le proiezioni di un 60% di no dovrebbero garantire, insomma, il no al salario minimo. Staremo comunque a vedere. Grazie intanto al collega del Sole 24 Ore Nino Terlizzi e al direttore dell'Associazione delle Industrie Ticinesi Stefano Modenini. Adesso torniamo dove ci eravamo lasciati ieri, il calo a sorpresa del PIL. Ritorno alla realtà è il fondo del direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, oggi sul quotidiano. Ma questa mattina Radio 24 ha avuto ospite sia il Presidente del Consiglio Matteo Renzi che l'ex Presidente del Consiglio e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, soprattutto Renzi, in un caso con Alessandro Milan, nell'altro caso con Giovanni Minoli. Dicevo, soprattutto Renzi ha commentato il dato sul PIL e in qualche modo anche, diciamo, quello che era l'appello del direttore del Sole 24 Ore: attenzione, non esiste la ripresa naturale. Allora, Renzi che dice: resto comunque ottimista, non è un ottimismo stupido e vano, ci sono segnali di ripresa importanti. Non è un ottimismo stupido o vano, è l'ottimismo di chi vede 74.000 posti di lavoro in più nell'ultimo periodo, è l'ottimismo di chi vede i mutui tornare a crescere il 18% in più. Naturalmente è un ottimismo che fa i conti con la realtà, nessuno di noi sta dicendo la crisi è finita, tranquilli, però credo che ci siano dei segnali di ripresa che siano molto importanti. Noi ieri abbiamo firmato, siglato un accordo che ha permesso, per esempio, a una delle vertenze che duravano da anni, quella di Electrolux, di chiudersi con l'azienda che rimane in Italia. Sono centinaia di posti di lavoro salvati. Abbiamo dei dati che sono sostanzialmente analoghi a quelli degli altri, a parte la Germania. La Francia fa 0,0, noi facciamo meno 0,1. L'altra volta la Francia aveva fatto più 0,2, noi più 0,1. Sostanzialmente si tratta di decimali. Il punto è un altro, il punto è che bisogna accelerare sulle cose necessarie a rimettere in moto l'Italia. Perché la Germania fa questi risultati? Perché l'Europa è cattiva e ce l'ha con noi? No, perché la Germania 10 anni fa ha fatto quello che noi non abbiamo avuto il coraggio di fare. Riforma della pubblica amministrazione, riforma del sistema del lavoro. Poi la notizia forse più forte che ha dato Renzi questa mattina ai microfoni di Radio 24: esclude una manovra correttiva, visto che ieri anche il collega Dino Pesaro diceva: beh, se il PIL frena così e non partiamo in crescita ma in recessione, meno 0,2% la non crescita acquisita quest'anno per i primi 3 mesi, mancheranno le coperture per le manovre di Renzi, a partire da quella sull'IRPEF. Renzi lo esclude. Assolutamente sì, scusi, per chiarezza totale, di solito le manovre si fanno per mettere nuove tasse. Appunto. Quello che è accaduto in 70 giorni di governo è che si è fatta una manovra non per mettere delle nuove tasse, non c'è un'unica tassa nuova messa, ma per cancellare un po' di tasse a chi non arriva alla fine del mese, vale a dire a quelli che guadagnano 1.500 euro. Io la prima riflessione che ho fatto ieri, quando ho visto i dati del PIL al meno 0,1, ho detto: beh, sono anche una misura anticiclica. Non esiste la ripresa naturale, non è stata ancora inventata. È vero che sui mercati l'euforia è recessiva, ma lo shock è arrivato del tutto imprevisto e tutto intero dal terreno più delicato, che è quello dell'economia reale. Andiamo peggio degli altri paesi europei in termini di PIL e siamo quelli che perdiamo di più sui mercati. Questo l'attacco dell'editoriale di oggi su Sole 24 Ore del direttore Roberto Napoletano. Direttore, buonasera. Buonasera. Renzi, adesso abbiamo le informazioni sul traffico. Questa mattina ai nostri microfoni resta ottimista, l'hai sentito anche tu. I segnali di ripresa sono importanti e esclude la manovra correttiva. Dopo il traffico vorrei un primo commento su questo, visto che tu proprio nell'ultimo libro Viaggio in Italia hai raccontato un'Italia in chiaroscuro, anche quella della provincia e delle periferie, non solo quella dei grandi centri, ed emergevano anche, oltre che i motivi di speranza, anche tutte le criticità, le arretratezze, i lacci, i lacciuoli, per usare la celebre frase di Guido Carli. Dopo il traffico. Allora, direttore Roberto Napoletano, Renzi fa il suo mestiere, fa il Presidente del Consiglio, deve dire che ci sono segnali di ripresa importanti, sottovaluta il segnale di ieri, oppure le due cose non si escludono, cioè la ripresa naturale che, come ricordavi, non esiste, ma anche insomma gli elementi che coglie il Presidente del Consiglio? Secondo me il Presidente del Consiglio sa esattamente come stanno le cose in Italia, come lo sanno tutte le famiglie italiane. Io dico sempre che un eccesso di semplicismo, un eccesso di ottimismo può avere l'effetto contrario, perché se io la sera vado a casa con mia moglie e i miei figli e scopro che mia moglie sta perdendo il posto, che mio figlio, che pensava di averlo quasi trovato, non lo trova più, tutto questo ottimismo, come dire, diventa addirittura controproducente. In realtà però bisogna essere onesti, il Presidente del Consiglio ha espresso davvero, dal punto di vista diciamo dell'energia, della forza politica, un sentimento nuovo, effettivamente nuovo, al quale gran parte della società italiana si aggrappa come speranza. Quindi io credo che lui si sintonizzi su questo sentimento. E siccome i sentimenti, le aspettative hanno un valore anche in economia, ci investe. Il punto titolato il fondo Ritorno alla realtà, però posso ancora dirti di più, che questo giro d'Italia che io ho fatto con Viaggio in Italia, sentendo, dando voce a chi spesso non lo ha, entrando nei bar, nelle scuole, nelle università, io ho sempre pensato che per carità, noi viviamo anni terribili, questa è la più grande crisi finanziaria globale, potremmo chiamarla una terza guerra mondiale, potremmo dire che Italia insieme a Grecia e Spagna ha perso. Quindi se uno vuole ricostruire questi anni, certamente andrà a leggere magari l'editoriale che fece Fate Presto, Stern From Erco, gli editoriali di tanti grandi economisti più bravi di me, però se vuol sapere che cosa è successo, che cosa pensano gli italiani, cosa hanno pensato gli italiani in questi anni terribili, in questi anni di crisi dalla quale non siamo ancora usciti, ecco, forse questo giro d'Italia è servito per cogliere la sofferenza di Parma, la dignitosa tristezza di Torino, fa effetto i torinesi in fila per andare a raccogliere la frutta che avanza quando chiudono i mercati rionali, fa effetto, la speranza commissariata a Reggio Calabria, fa effetto sentirsi andare a Cacuri, cioè Calabria dimenticata in una Calabria isolata, per cui mi chiamo mio amico Reggio Calabria e dice: faccio prima ad arrivare a Roma che venite a trovare a Cacuri. Questa è l'Italia di oggi e io credo che venite a... Ecco, c'è un timore che vedo sullo sfondo, cioè c'è chi può dire, nella logica del tanto peggio tanto meglio, vabbè, se tanto l'Italia non cresce le riforme sono inutili. A mio avviso questo nasconde la protezione di interessi di parte, di lobby, di corporazioni. Faccio notare un passaggio dell'intervista del Premier Renzi questa mattina a 24 mattino, in cui Renzi, a mio avviso correttamente, dice: la Spagna è l'unico paese di quelli della oil belt, della cintura dell'olio, come la chiamano in maniera un po' sprezzante gli inglesi, a crescere. È vero, la Spagna cresce dello 0,4%, la Francia è ferma, il Portogallo meno 0,7%, noi meno 0,1%, la Spagna cresce. Questo è il passaggio. Estendere per 36 mesi i contratti significa consentire agli imprenditori e ai lavoratori di avere più semplicità e più possibilità di assumere. Il blocco che c'è in Italia sulle regole è devastante, per cui il problema che ci arriva da tutti i riferimenti dei mercati internazionali è che le nostre regole sul lavoro erano le più vecchie e antiquate d'Europa. Non è un caso che la Spagna, che pure ha dei fondamentali decisamente più negativi dei nostri, la disoccupazione degli adulti o dei giovani è circa il doppio che la nostra, ha però delle percentuali di crescita, siamo sempre sul prefisso telefonico, 0, che comunque è superiore alla nostra. Perché accade questo? Accade questo perché, per esempio, la Spagna ha avuto la capacità di fare una riforma del mercato del lavoro che noi abbiamo iniziato soltanto adesso. Oddio, saranno decimali, ma avessimo avuto lo 0,4 saremmo qua a festeggiare, altro che decimali. Allora, direttore Napoletano, qui c'è un tema, insomma la Spagna è vero, ha ragione a mio avviso Renzi nel dire la Spagna ha dei fondamentali peggiori di noi. Noi siamo il secondo paese esportatore a livello europeo, con la manifattura più importante dell'area euro, abbiamo una disoccupazione altissima, record, ma che è molto più bassa di quella spagnola. E poi la Spagna fa più 0,4, saranno pure decimali, ma sono decimali che le fanno girare. No, io sono totalmente d'accordo con quello che hai detto tu, che però in realtà è anche quello che ha detto il Premier Renzi, cioè io l'ho scritto nell'editoriale dove in Spagna c'è una classe di governo che ha fatto meno propaganda e qualche riforma, a partire da quella del mercato del lavoro, ma non solo. Ora cosa voglio dire? Che adesso, indipendentemente da chi ci governa, il cammino di uscita da questa crisi per l'Italia è un cammino lungo, complicato. Io credo che noi dobbiamo ancora scontare questi giorni che ci separano dalla consultazione elettorale che sarebbe europea, ma è tutta giocata, che è europea, ma purtroppo viene vissuta e giocata tutta in chiave interna. Dal giorno dopo si comincerà a fare sul serio e io mi auguro veramente che Renzi applichi non solo la sua energia positiva che esiste, che è oggettiva in termini di trasporto e in termini quasi emozionali, ma che prosegua con un lavoro serio, coinvolgendo persone serie, di valore, motivandole, incentivandole, perché la gravità dei problemi richiede una squadra all'altezza dei problemi che abbiamo davanti. Quindi bisogna proprio cambiare, cioè il linguaggio deve essere, io dico, quello del coraggio, della verità, cioè, e questo sia in Italia sia ancora di più in Europa, perché è chiaro che un contributo decisivo lo possiamo avere. Il riferimento che hai fatto alla Francia è importantissimo. La Francia per certi versi ha fatto ancora meno riforme di noi, è più immobile di noi e si avvale sui mercati di questo scudo tedesco che vale sempre per i paesi nordici e per la Francia stessa, indipendentemente dall'andamento dell'economia reale, però deve capire una volta per tutte che se l'Europa sprofonda, se l'Europa non riparte, se questo eccesso di rigore non consente al più grande mercato interno europeo di tornare ad essere quello di una volta, la Francia stessa perderà. E quindi bisogna che la Francia, la Spagna, l'Italia costruiscano un rapporto vero con la Germania, perché secondo me oggi il momento è opportuno, perché anche dentro la Germania, cioè nel suo mondo politico, a partire dalla Merkel, nel mondo della finanza, nel mondo delle imprese, cresce la consapevolezza di dover cambiare qualcosa, ma qualcosa velocemente e in profondità, per far ripartire gli investimenti, per investire in innovazione, per dare un segnale a tutti che l'Europa esiste, non solo una chiave di rigore, ma anche una chiave solidaristica e di sviluppo. E abbiamo visto anche un cambiamento di posizione della Bundesbank, che Weidmann dica grazie al direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano. Da Sebastiano Barigioni l'augurio a chi ne ascolta di un buon fine settimana, soprattutto per chi lo passerà lavorando. Vedremo cosa capiterà. Noi saremo qui come sempre a raccontarvelo lunedì dalle 17 in poi.